Rieccoci qua a parlare degli avvistamenti alieni sui cieli della Calabria, come avevo promesso nello speciale. Parto con l'articolo di cui vi dicevo, praticamente martedì 8 novembre un uomo che stava percorrendo alla guida della sua vettura, l'A3, tra gli svincoli di Rende e Cosenza, è stato testimone di un misterioso avvistamento sui cieli di Serraspiga. Intorno alle 7:51 ha notato uno strano oggetto rotante di colore nero, con un nucleo centrale trasparente o riflettente, ma comunque chiaro. Girava su se stesso molto lentamente e di profilo appariva come un sigaro verticale. Una relazione completa di fotografie scattate col telefonino che sono state elaborate dagli esperti del CUN, che sarebbe il Centro Ufologico Nazionale. Il rapporto degli studiosi descrive l'oggetto a una distanza visiva di 1800-2000 metri, variabile fino a 2200 metri. Le sue dimensioni effettive sono di 35-40 centimetri circa. Il rapporto alla distanza apparente alle condizioni prospettiche delle riprese fotografiche, aree edilizie nelle immagini fotografiche. L'oggetto ha una struttura tridimensionale con sezione circolare e sviluppo curvo, cioè semiellittico semicircolare. Si ravvisa inoltre la presenza di sezione cava con andamento pressoché ellissoidale, assimilabile a un elemento tubolare con disegno a C, composto da due sezioni accoppiate lungo la linea mediata longitudinale. Il colore appare di tipo marrone scuro e non riflettente, in ragione del fatto che si è in presenza di condizioni di luce diffusa con assenza di sole nelle riprese. L'apparenza denota un fenomeno costituito da un oggetto di tipo solido con materiale opaco, soggetto a movimento proprio composto con rotazione sia lungo l'asse orizzontale e sia lungo l'asse verticale. Questa descrizione, secondo me, sfata un po' il luogo comune che la navicella spaziale debba essere per forza circolare, rotonda, ecco, noi abbiamo l'immagine di dischi volanti. Io l'altra sera, un po', non è stato molto, molto tempo fa, diciamo circa 15 giorni fa, in TV hanno dato la guerra dei mondi, non so se voi l'avete visto, io siccome, come voi ben sapete, penso che il mio interesse, fra virgolette, diciamo, la mia curiosità, ecco, mi piace di più definire la curiosità su questi film, anche perché io sono cioè, diciamo una fan di questo tipo di film. Hanno dato La guerra dei mondi, che veramente è stato molto inquietante quel film, io lo definirei quasi horror per quello che ho visto, in cui c'erano questi dischi volanti che molto molto articolati, devo dire, che avevano invaso la Terra, avevano risucchiato molti esseri umani per berne il sangue e risputarlo sulla Terra, veramente davvero uno scenario molto molto inquietante, ecco, è la parola giusta per non usare altri termini, perché veramente si vedeva uno scenario veramente cupo, veramente dell'horror, appunto. Queste riprese, appunto, vanno a sfatare il mito che la navicella spaziale che contiene un alieno sia per forza rotonda, a parte che la descrive come di 35-40 metri, quindi abbastanza grande. Anche se io nell'articolo c'è stato un piccolo errore perché avevano scritto 35-40 centimetri addirittura. Comunque sia, descrive appunto il movimento di questa navicella spaziale nei cieli, che nelle prime luci del mattino comunque sia non erano illuminate, magari ci stavano osservando, stavano, come dire, prendendo le misure di questo nostro lembo di terra che è la Calabria, questa punta della Calabria, anche se si trovava per lo più nella Calabria del Nord. Darei un appello a tutti i nostri amici confinanti, quelli possono essere la Basilicata, la Puglia, magari si spostano anche sul vostro versante e vi tengono d'occhio. Chissà che gli UFO non decidano di stabilire, di insediarsi nelle nostre terre, magari diventino dei nostri vicini. Chissà se non abbiamo già dei vicini di casa UFO. Io ho dei miei dubbi sui miei vicini, non ho dubbi sui miei vicini perché li conosco da quando ero veramente piccola, quindi non sono degli UFO, però per chi ha cambiato abitazione da poco la butterei un po' sul ridere, guardatevi un po' intorno perché potreste avere un compagno di quartiere, un vicino appunto alieno. Che questo non significa che sia anormale, molto spesso i pazzi, cioè, ah, c'è un vicino di casa pazzo e io mi guarderei un attimo intorno a questo punto. Comunque, scherzi a parte, prima di andare a leggervi dell'altro avvistamento, io preferisco lasciarvi alla pausa musicale, restate con noi, spero che l'argomento di questa sera lo trovate interessante. Restate con noi.